tra gli LCD, parolacce, omicidi, come fossero normali. Offrono alla folla piatti che si offrono ai maiali, come in fondo già facevano gli antichi romani. Per avere sempre più platea ai loro canali, danno gossip e cronaca più nera anche i telegiornali. Distrazioni forti a noi che conduciamo vite banali, divoratori di trash, ci azzanniamo per la strada come animali. Dove si va se la realtà passa da una telecamera? L'audience vola, l'audience vola, ci nutrono la mente a cibo in scatola ed ora non si può rinunciare. L'audience vola, l'audience vola. Sangue botte, altre schifezze a fiumi per noi consumatori e tanta propaganda che rincoglionisce almeno tre generazioni. Polverizzano la privacy e tutti i nostri valori come cavie da reality in laboratori, per tenere stretti tutti noi nelle sue mani. Sfrutta senza scrupoli i nostri casi sociali, divertire a tutti i costi anche con fucili e pugnali. Categorico flash riferito ai volontari. Dove si va se la realtà passa da una telecamera? L'audience vola, l'audience vola, ci nutrono la mente a cibo in scatola ed ora non si può rinunciare. L'audience vola, l'audience vola. Dove si va se la realtà passa da una telecamera? L'audience vola, l'audience vola. Ed ora non si può rinunciare.